binti sen kofano sai yi sun cancin a jirin musara da sen tsidere ba mutara yin sau sa tsidere ba su mutara yin biyar na nace fa danse danse toujours